Salva Danaio con Valeria De Rosa. Buongiorno, sono le 12 minuti quasi, benvenuti all'ultimo appuntamento di questa settimana con Salva Danaio. Oggi parliamo delle frodi creditizie, cercheremo di capire come è possibile schivarle, come prevenirle, che cosa si deve fare quando ci si ritrova in questo genere di situazioni, che sono situazioni che spaziano, non è solo la carta di credito, ormai non lo è più, ma è proprio il furto della nostra identità al fine appunto di ottenere un prestito per comprare, che poi ovviamente non viene onorato. Quali sono i danni che ci dobbiamo aspettare da questo genere di manovre, di comportamenti fraudolenti? Come sempre lo facciamo con degli illustri ospiti che vado subito a salutare, collegati telefonicamente con noi. Beatrice Rubini, direttore della linea Mister Credit di CRIF, buongiorno, benvenuta. Buongiorno a voi. E saluto Pietro Giordano, presidente di Adiconsum. Buongiorno. 800240024 per intervenire in diretta, 349-238-6666 per i vostri sms, sottoponeteci le vostre domande e se avete delle testimonianze da raccontare fatelo, perché potrebbero essere molto utili anche ad altri per imparare, per capire come ci si comporta appunto in queste situazioni. Prima però andiamo a dare un rapido sguardo a che cosa sta succedendo sui mercati. In questo momento sono tutti in calo i listini del vecchio continente, anche se, lo dicevamo anche nel corso del giornale radio, i movimenti sono proprio limitati. C'è molta attesa per i dati che arriveranno nel primo pomeriggio relativi al mercato del lavoro statunitense, che sono sempre degli indicatori importantissimi per l'economia di quel paese e per l'economia in generale. Parigi cede uno 0,14%, Francoforte lo 0,36%, Londra è piatta. In questo momento a Piazza Affari il FTSE MIB cede 1,0,29%. Sul listino principale il miglior titolo è Autogrill, e questo succede fin dalle prime battute di questa seduta, più 1,37% all'indomani dell'assemblea dei soci che ha dato il via libera alla separazione delle attività di ristorazione rispetto a quelle di duty free. Questa è un'operazione che renderà più facile alleanze e acquisizioni e quindi è stata ben vista dal mercato. In evidenza anche G-Tech più 1,23%, Diasorin più 1,16%, Telecom Italia guadagna l'1,13%. In fondo al listino troviamo Fondiaria 6 che cede 2 punti percentuali, così come Azimut, giù anche Unicredit meno 1,95%, Finmeccanica cede l'1,94%, STE Microelectronics cede l'1,78%. Il cambio euro su dollaro 1,32,44 in questo istante, mentre il differenziale tra BTP e Bund si mantiene stabile oltre quota 280 punti. Ha cominciato a risalire ieri dopo le parole del presidente della BCE Mario Draghi. È vero che la ripresa in Europa si fa più fragile, ma per il momento la banca centrale decide di stare a guardare. Questo è sicuramente un atteggiamento che ha avuto un'influenza negativa sia sulla chiusura di ieri sia sull'andamento di oggi, appunto in attesa dei dati che arriveranno dagli Stati Uniti. 800240024 per intervenire in diretta, 349-238-6666 per i vostri sms. Ora la nostra scheda. Prima si ruba un'identità, poi si sfruttano in modo illecito dati personali e finanziari per ottenere credito o acquisire beni, con l'intenzione ben precisa di non pagare né restituire i finanziamenti. Funzionano così le frodi creditizie, un fenomeno che purtroppo è in netto aumento in Italia, arrivando a superare di gran lunga il numero delle rapine in banca. Tra le tipologie di finanziamento più colpite, spiccano al primo posto i prestiti finalizzati, soprattutto quando c'è l'intermediazione di concessionarie o catene di distribuzione, che spesso hanno meno difese rispetto agli istituti di credito. Non a caso, una frode su tre riguarda l'acquisto di auto o moto. Aumentano anche le frodi sui prestiti personali, sui mutui e nell'emissione di cambiali e assegni a nome altrui, con l'utilizzo di carnet rubati o smarriti e la falsificazione delle firme, ma anche attraverso l'apertura di conti correnti a nome altrui. Nel 2012 le rilevazioni messe a punto da CRIF hanno individuato oltre 24.000 di questi atti criminali, in crescita dell'8,6% rispetto all'anno precedente, con perdite economiche che sfiorano i 195 milioni di euro. Rispetto al passato, sono più colpite le donne e i giovani, con un più 21% rispetto al 2011, che riguarda proprio gli under 30, complici anche un uso poco prudente del web, dei social network e delle app per dispositivi mobili, che possono aumentare la vulnerabilità dei dati personali. Allora, dottoressa Rubini, voglio partire proprio da lei, perché voi ovviamente raccogliendo tutte queste informazioni avete una visuale privilegiata anche su questo genere di condotte. Io volevo capire come mai appunto, se questo trend in salita, in rialzo sempre dall'anno scorso a quest'anno, è legato molto e sempre di più a ovviamente lo sviluppo dell'e-commerce. Immagino che sia questa poi la direttrice fondamentale su cui si sviluppano tutte queste condotte fraudolente. Guardi, sicuramente lo sviluppo di queste condotte è legato a una maggior facilità di accesso e reperibilità dei dati personali, non solo legato all'e-commerce, ma al fatto che sempre più persone, anche semplicemente tramite social network, lasciano visibili i propri dati a tutti, magari con un po' di leggerezza. Quindi sicuramente il web è un posto dove è possibile facilmente rubare dati personali. L'incremento poi di questo fenomeno è legato secondo noi anche dalla difficoltà di contrastarlo, nel senso che sicuramente è molto più difficile commettere una rapina piuttosto che una frode creditizia e un furto identità, perché comunque creandosi dei documenti falsi dopo aver rubato dei dati personali, la cosa è piuttosto semplice ed è molto difficile per gli istituti di credito invece intercettarla. Inoltre molto spesso sappiamo che sono reati che rimangono impuniti perché le organizzazioni che ci stanno dietro sono di difficile individuazione, quindi questo spiega un po' lo spostamento, no, dei crimini legati appunto alla possibilità di ottenere denaro dalle rapine a invece le frodi creditizie, che sono evidentemente una buona metodologia. Sì. Ecco. Allora, Presidente Giordano, forse però c'è anche una poca consapevolezza del persistere di queste condotte fraudolente, del fatto che noi stessi possiamo essere vittime, ovviamente inconsapevoli, di qualcosa del genere, come appunto il furto della propria identità. E a proposito della consapevolezza, so che voi state portando avanti un progetto europeo per cercare di sensibilizzare, magari anche dare degli strumenti. Sì, abbiamo un progetto europeo che si chiama il MINE, e abbiamo anche un numero verde e un'informativa tramite email. Il numero verde, il numero telefonico è 06 44 17 02 52. E basta andare sul nostro sito per trovare tutte le informazioni rispetto a questo progetto, che proprio sul furto di identità purtroppo l'informazione non è molto, molto presente in questa materia, e come ha detto chi mi ha preceduto, invece questo è un fenomeno in forte ascesa, perché c'è anche, lo dico come rappresentante dei consumatori, i consumatori sono molto leggeri spesso nel mettere ad esempio su internet i propri dati. Il fenomeno delle social network mette a nudo molte identità delle persone. Certo. E questo non capita solo per i ragazzi, capita spesso anche in fasce che hanno superato sia l'adolescenza sia la gioventù, si mettono alla rinascita, si mettono una serie di informazioni che sono proprio quello che cercano chi in qualche modo deve rubare l'identità. Allora, prima di capire un po' come si muove chi agisce in questo modo e come noi ci possiamo difendere, io volevo chiedere alla dottoressa Rubini, perché ho letto anche nei vostri report, passa parecchio tempo prima di scoprire questo genere di frode, insomma anche un anno, anche più di un anno. Come mai passa così tanto tempo prima di riuscire a capire che è stata messa in atto una frode di questo genere, magari appunto sottraendo la nostra identità? Guardi, la spiegazione nella maggior parte dei casi che noi abbiamo analizzato riguarda il fatto che diciamo di solito chi ruba l'identità, però diciamo poi disloca la propria residenza in una città, in un luogo diverso dalla reale vittima, quindi fondamentalmente la reale vittima, magari anche se la banca o la società finanziaria fa dei solleciti, questi solleciti non li riceve personalmente, quindi magari si accorgerà del fatto quando va a chiedere un finanziamento e viene appunto detto che in realtà ci sono ancora delle pendenze di pagamento, oppure diciamo poi ovviamente le banche mettono in atto tutto un sistema di rintraccio, quindi nel momento in cui dopo magari lungo tempo riescono a capire effettivamente quella persona dove risiede, riceverà effettivamente il sollecito di pagamento. Sì. Quindi questa diciamo è la principale spiegazione. In realtà ho visto anche proprio casi di persone che magari avevano anche ricevuto dei solleciti di pagamento nella propria residenza, ma hanno un po' sottovalutato la cosa, mi arriva un bollettino postale da pagare per un finanziamento e dico ma ci non deve essere mio, un caso di omonimia, certo. Non sono io, cioè non sono andati ad approfondire il fatto che in realtà non era una semplice omonimia, era un vero e proprio furto di identità. Certo, ecco. Però voglio dire, rubando l'identità, poi bisogna costruire anche tutta un'altra serie di documenti. Possibile che sia così difficile distinguere il vero dal finto? Perché insomma bisogna mettere proprio su un'identità totalmente finta. Sì, i documenti, diciamo che c'è purtroppo un florido mercato di creazione di documenti falsi, documenti di identità. Diciamo che non sempre c'è questa capacità e esperienza di andare a riconoscere un documento falso da un documento vero, ma non è spesso così facile riconoscerli, cioè non è tanto la leggerezza, ma è il fatto che questi documenti sono fatti sempre meglio, purtroppo. E l'altra documentazione che di solito viene prodotta, come per esempio la busta paga, è un qualcosa che è difficile da andare effettivamente a capire, perché la busta paga non ha degli elementi diciamo di sicurezza insiti come magari documenti di identità, non è in realtà così facile capire se si tratta di una busta paga vera o falsa. Ecco. Quindi diciamo che purtroppo tutti questi elementi fanno sì che compiere una frode non sia così difficile. Purtroppo. Roberto da Lecce, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno. Ci dica. Ebbene, la storia che volevo raccontare è un po' tipica dei nostri tempi e del nostro paese. Allora, si riferisce a 2004, un mio familiare si è accorto, tornando dal supermercato, di essere stato probabilmente borseggiato, insomma le mancava il portafogli. E, fatta la dovuta denuncia alla polizia locale, dopo circa sei mesi la questura chiama l'interessato dicendo che erano stati rintracciati i documenti, non naturalmente gli euro contenuti nel portafoglio. Beh certo, questo non ne dubitavamo purtroppo. Cioè patente e carta d'identità. Trascorsi altri 6 mesi circa, quindi quasi un anno dall'inizio, dal momento del furto, cominciano ad arrivare le richieste di alcuni studi di recupero crediti. Sì. Per un acquisto avvenuto sulla base di un finanziamento. Sì. Rilasciato da una banca, non sì. so se è il nome. No. Sulla base di una patente falsificata, cioè avente lo stesso numero, lo stesso certo. Data, tutto, però come una fotografia leggermente diversa e una firma ovviamente diversa e un indirizzo diverso, dalla parte opposta a quella sì. dell'Italia dove ci troviamo noi. E naturalmente dobbiamo ricorrere a un avvocato, spiegare tutto, dimostrare. Certo. A distanza, questo accadeva nel 2004, sì. A distanza di tanti anni pare che abbiano individuato un qualche responsabile, sì. Per cui adesso arriva la convocazione in tribunale a una persona piuttosto anziana sì. di recarsi nel nord Italia, noi siamo nel sud, nel nord Italia, perché ci sarà un processo. E cosa deve essere detto in questo processo? Mi sono accorto che mi era stato rubato il portafoglio, ho fatto la denuncia, basta, non so altro. Certo, allora la sua considerazione, il suo racconto io lo giro al presidente della Diconsum Giordano, più che altro per fare appunto un discorso magari un po' più ampio. È ovvio che adesso ovviamente aprendosi un processo il signore in questione si dovrà recare fisicamente per testimoniare in aula, però diciamo questo è indicativo di quanto può accadere, questo è proprio il caso di un furto di identità vero e proprio. E paradossalmente per gli è andata bene, perché noi abbiamo notizie ancora di cose ancora peggiori, perché quando un prestito si fa ad esempio o si acquista con un'auto con documenti falsi dopo sì. un furto di identità può succedere come è successo che quell'automobile ha investito una persona e la persona certo. ha subito lesioni, quindi si entra in una sorta di tunnel infernale in cui bisogna provare che la macchina non era propria, che era stata oggetto certo. appunto di un furto di identità, con tutte le conseguenze che questo ha. Ecco perché è assolutamente indispensabile una serie di cautele. Io ho detto quelle di internet, ma non ci sono solo quelle. Spesso certo. inconsapevolmente si risponde a phishing, si risponde sì. a spam. E questo non si deve mai fare, inconsapevolmente si lascia sul computer le copie dei propri documenti di identità in copia e siccome basta un Trojan, che è un programma che ti legge tutto ciò che hai sul computer per certo. estrarre tutti i dati necessari, bisogna stare molto attenti quando si butta nella spazzatura, perché esiste anche questo tipo di furto di identità, esempio i documenti che riguardano la propria banca, la propria posta, certo. bisogna bruciare quei documenti o se si ha un trita documenti bisogna tagliarli, troppo spesso invece si è convinti che in qualche modo dietro l'angolo non ci sia qualcuno che ti osserva, invece può succedere. Ci sono persone che vanno sulla differenziata alla carta per vedere se ci sono documenti ancora intatti e poter trarre da quei documenti dati bancari, dati postali, dati personali, dati sensibili, quindi per realizzare il furto di identità. Certo. Quindi attenzione, molta attenzione rispetto a come si usano i propri documenti, come ad esempio un altro consiglio, gli alberghi hanno un vizietto, che è quello che quando si consegna la carta d'identità e i consumatori sì. non si rendono conto, fanno la fotocopia. Sì, sì. Mai far fare la fotocopia, si aspettano 2 minuti lì, perché poi la fotocopia va in giro, mentre chissà il documento doveva per finire. La polizia, certo. ecco. Meglio tutti questi piccoli accorgimenti, perché dietro un bancone poi sono tutti onesti lavoratori, però certo, può passare pure qualcuno e prende la fotocopia o butteranno nel cestino quella fotocopia. Anche e poi lì chissà noi abbiamo, dove va a finire, certo. Abbiamo posto il problema ad esempio con le banche, che spesso non tritano i propri documenti e buttano i nostri documenti, buttano certo. i documenti nella spazzatura, certo. Nella spazzatura, e quelli è chiaro che chi va a frugare nella differenziata poi va vicino alle banche più che venire vicino ai condomini. Certo. Le frodi creditizie in molti casi prendono alla sprovvista. In tante altre occasioni, però, qualche semplice accorgimento può aiutare a prevenirle. Ad esempio, è bene evitare di rispondere alle email che chiedono dati relativi ai conti e alle carte di credito, anche se sembrano arrivare dalla nostra banca. Meglio non aprirle affatto. Per rivolgersi al proprio istituto bancario, è bene non utilizzare gli indirizzi forniti da un'email, cliccando a partire da questa. Meglio ridigitare completamente l'indirizzo internet della banca. Controllando spesso l'home banking, si ha la possibilità di tenere sott'occhio i propri conti e accorgersi subito se sono state effettuate delle operazioni non autorizzate. È un'attenzione che permette di accorgersi in tempo di eventuali frodi. È inoltre importante attivare i sistemi di protezione forniti dal proprio istituto. E allora anche noi abbiamo voluto dare qualche piccola indicazione, qualche suggerimento, come ha fatto prima della pubblicità e del meteo il presidente di Adiconsum Giordano. Io intanto ringrazio i nostri ascoltatori che ci hanno atteso collegati telefonicamente. Fernando da Lecce, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Ci dica. Noi naturalmente, o io in particolare, accetto anche il fatto che anche lo Stato ci obbliga a usare carte di credito anche per una tracciabilità. Sì. Sinceramente non mi preoccupa perché intanto il mio stipendio è quello, i miei soldi sono quelli onesti che mi guadagno. Sì. Però poi succede che subiamo delle frodi, perché giustamente quanto più si usano queste carte è più facile magari rischiare delle frodi. Sì, sì. Subisci delle frodi, tante volte si danno la colpa agli utenti che non proteggono i loro dati, tutte queste cose qui. Sì. Però poi quando la frode la subisce un ente come le poste, in questo caso mio l'ho subito tramite le poste, tutto tarda magari a risolversi. L'anno scorso, se non vado errato, fu la Guardia di Finanza a scoprire un software che agiva proprio direttamente sul sito delle poste, spostando dei soldi da un conto all'altro, una cifra uguale per tutti, 499,99, per non incorrere diciamo in dei controlli che questo software poi veniva scoperto. 24.000 truffati la Guardia di Finanza ha scoperto. Sì. Ora, questo, le poste se ne lavano le mani. Cosa dobbiamo fare? Nonostante noi siamo già, almeno io sono il mio avvocato, sicuramente altri... diciamo allora, certo, no, abbiamo capito perfettamente. Dunque, qui la situazione è un pochino diversa, però magari si può dare qualche indicazione, Presidente Giordano, anche a questo ascoltatore. Sì, molto semplice. C'è una commissione che noi abbiamo fatto con Poste, che è una commissione di conciliazione. Se il consumatore manda un'email o va presso la nostra sede, può essere attivata questa commissione di conciliazione, e se ce ne sono altri che hanno subito questo tipo di truffa, ci attiviamo con Poste per recuperare quanto dovuto. Se Poste nega, non può negare, io lo dico ufficialmente, perché è come quando avviene in banca, cioè quando avviene in banca un furto, diciamo, non dovuto al consumatore, una truffa non dovuta al consumatore, Poste deve avere le assicurazioni per poter, come dire, risarcire il consumatore. Diverso è quando viene rubata la carta di credito, e anche lì un altro consiglio: quando spesso dal ristorante tutti può capitare di dare la carta di credito, rimanere al tavolo e dare la carta di credito, ecco, questo non è molto consigliato. È meglio alzarsi, diciamo, e andare alla cassa e vedere che movimenti fa la carta di credito, certo. Anche quando ci sono movimenti dietro in una stanza a parte, si deve chiedere che appunto invece venga fatto il pagamento di fronte. Quindi, certo. Però per quanto riguarda la posta, si può attivare un contenzioso immediatamente, ripeto, il sito è adiconsum.it, ma l'avvocato, la via giudiziaria è sempre una via molto, come si sa in Italia, molto accidentata, una via molto, ma molto lunga. Io consiglio di accorciare questa via, tramite la conciliazione. Allora, voglio girare anche però un SMS che è arrivato al 349-238-6666 alla dottoressa Rubini, perché un ascoltatore ci chiede: ma come si fa per sapere se per caso in questo momento è in corso una truffa nei miei confronti? Cioè, ci sono degli strumenti per capire se attualmente sta avvenendo una truffa ai miei danni e ovviamente io non ne sono ancora a conoscenza. Ma sì, una modalità per esempio può essere quella proprio di accedere ai dati presenti sui sistemi di informazioni creditizie come quello di CRIF, dove vengono segnalati tutti i nuovi finanziamenti, e quindi in questo modo, diciamo, andando proprio a leggere le varie linee di credito, uno può riconoscere se sono tutte operazioni che ha fatto lui o se c'è Oppure no? qualcosa che non torna. Bisognerebbe anche diciamo, fare una visura sui protesti, perché anche qui, per esempio, il fenomeno proprio dell'apertura di conti correnti a nome altrui con magari poi assegni messi a vuoto e protestati, anche quello consente di scoprire se effettivamente uno è vittima di quest'altra tipologia di frode, perché appunto Sì. nei nostri report creditizi, ecco, non ci sono ovviamente i dati relativi a tutti i conti correnti che uno ha, ma solo le operazioni a credito. Quindi questa può essere sicuramente una modalità per fare un check-up, ecco. Allora, Antonio da Monza, buongiorno. Sì, buongiorno, Ci chiedo dica. scusa per la voce, sono un po' raffreddato. Guarda, chi lo dice? Senta la mia. Purtroppo non se ne riesce a venire fuori, comunque. Ci dica. Allora, circa un anno fa io ho ricevuto inaspettatamente una lettera da parte di una società di recupero crediti, con la quale mi invitavano a pagare più di 1.800 euro di fatture Sì. di una compagnia telefonica non pagate, al che io sono andato subito in allarme perché io non ho mai avuto nessun contratto sottoscritto con tale compagnia Compagnia. telefonica. Al che subito ho cominciato, insomma, a chiamare il servizio clienti. Se, secondo il Certo. servizio clienti avevo attivato in un paese lontano 700 km da qui, da Monza, Sì. dove io non ho mai avuto nessuna residenza, avevo attivato secondo loro questa linea telefonica che poi per 10 mesi non era stata pagata, per cui la compagnia telefonica tramite questo ufficio di recupero crediti mi chiedeva di pagare. Sì. Perché io ho negato subito tutto, però chiaramente ho cominciato a documentarmi su come potevo fare. Infatti Certo. ho chiamato la polizia postale di Milano che mi ha detto di sporgere denuncia alla polizia postale, chiaramente, però contestualmente di attivare anche una procedura di conciliazione presso Corecom Lombardia, Sì. che è un ufficio di Regione Lombardia che si occupa di definire in sede stragiudiziale Sì. questo tipo di controllo, cioè, con un conciliatore loro. E il problema però qual è stato? Alla fine, dopo 10 mesi, alla fine ho conciliato, cioè ho Sì. conciliato, erano loro che dovevano annullarmi tutto l'addebito. Certo. Ma il problema è intanto 10 mesi di rimbalzi, E ci credo. perché io poi ho provato più volte a chiamare sia il servizio clienti di questa compagnia telefonica, Sì. sia la società di recupero crediti, che poi non contenta di averli avvisati una prima volta, mi ha fatto scrivere una seconda volta dall'ufficio legale, Certo, ci al che credo. io ho risposto, ho detto guardate, non mi disturbate ulteriormente, aspettate la definizione della controversia presso Corecom Lombardia, vi notifico anche la querela che ho sporto presso ignoti per un presunto furto di identità. Ma Certo. il problema poi è che quando sono andato io a conciliare a Corecom, si è presentato davanti a me l'avvocato di questa società telefonica, Sì. di questa compagnia telefonica, e io, mi creda, io non sono riuscito a visionare il presunto contratto che io secondo me avrei firmato. Quindi Qui non c'è. Certo. Non c'è nessuna evidenza di questa cosa qui, non c'è nessuna traccia, non c'è nemmeno un contratto stipulato telefonicamente con registrazione dove eventualmente uno poi può chiedere la trascrizione. Allora, signor Antonio, intanto la ringraziamo per la sua testimonianza, perché è comunque un caso che davvero uno mai andrebbe a pensare che potesse succedere a sé, però insomma sono cose che capitano, che succedono anche molto più spesso di quanto noi non immaginiamo. Per allontanare il rischio di frodi creditizie, è bene fare a brandelli i documenti cartacei bancari contenenti i propri dati, prima di buttarli nella spazzatura. Molte informazioni sul nostro conto potrebbero essere raccolte anche in questo modo. Attenti agli occhi indiscreti, ad esempio quando si digita il codice del bancomat o quando si consegna la carta di credito al cameriere del ristorante. Ci possono essere rischi non meno che nelle transazioni online. Se ci si accorge di un'operazione sospetta, è bene denunciarle in tempi rapidi alla polizia postale, oltre che al proprio operatore, anche perché la denuncia può essere chiesta dal proprio istituto in caso di richiesta di risarcimento. Infine, non va dimenticato che la difesa contro i sistemi di frodi creditizie passa anche attraverso l'utilizzo di sistemi antivirus costantemente aggiornati. Altri suggerimenti quindi per tenere sotto controllo la nostra identità e non farcela soffiare sotto il naso. A questo proposito io alla dottoressa Rubini vorrei chiedere: ma chi si accinge a dar luogo a questo comportamento, che ricordiamo è ovviamente un comportamento fraudolento, quindi a voler rubare l'identità di qualcun altro, traccia un identikit della persona che potrebbe essere la migliore, tra virgolette, a cui rubare questa identità? Ma sicuramente diciamo che la persona migliore è la persona che magari ha proprio una buona storia creditizia e quindi è l'insospettabile, quindi c'è sicuramente una targetizzazione. Sì. Un caso appunto di alcuni mesi fa riguardava proprio chi magari con falsi annunci di lavoro si è fatto dare dei curriculum vitae. Sì. E ha recuperato dei dati, poi forse certo, recuperando tutta un'altra serie di informazioni. Quindi sì, sicuramente ci sono attacchi mirati. Abbiamo visto altre volte anche magari furti, identità e frodi creditizie che riguardavano parenti o amici. Per cui poi far emergere diciamo queste cose, chi certo, poi si ritrova vittima e capisce cosa c'è stato dietro, non sempre sporge una denuncia, certo, perché poi si mette in difficoltà un familiare, ma esiste anche questo fenomeno, ecco. Allora, Paolo da Milano, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, scusate, anche me, solito problema. Ci dica. No, voglio stare un attimino sull'argomento che aveva facciato, mi sembra, professore dottor Giordano. Sì. Riguardo appunto le fotocopie dei documenti di identità. Sì. Ora, qualsiasi pratica che uno vuole fare, ad esempio con Telecom, con Tre, chiedono sempre e comunque una copia del documento di identità. Questo succede praticamente quasi sempre, anche solo per, non so, attivare o sbloccare dei servizi. Certo, ma banalmente comuni, per attivare molte pratiche ci vuole il documento. Ora anche i comuni si stanno accingendo a fare assieme alle Camere di Commercio queste, diciamo, queste pratiche online, per cui devi dare i documenti online. Sì. A questo punto dico il consiglio di aspettare, certo, magari il portiere dell'hotel diventa un po' così, allora, vediamo, rispetto invece, certo, alla problematica che si sta prendendo. Certo, assolutamente. Vediamo un po' che cosa ci dice il presidente Giordano a questo proposito, perché è vero, praticamente per avviare quasi tutte le pratiche c'è bisogno della fotocopia del documento. È la cosa differente, perché quando io consegno un hotel è una cosa, non ha l'obbligo di conservare quella fotocopia, sì, mentre la pratica di accensione di un contratto invece all'obbligo, e quindi ricade su tutte chi contrae la fotocopia di quel documento, all'obbligo della privacy, e ove dovesse, quindi ha una responsabilità, come dire, ha una responsabilità. Ecco perché l'hotel è un attimino diverso. L'hotel, quando lo scrivo, ho, sì, l'obbligo sull'hotel rispetto ai dati che scrive su, sì, quel, ma la fotocopia, torno a ripetere, non è allegata nell'hotel alla documento, certo, che viene poi trasmesso, sì, chiarissimo, alla polizia. Invece in quel modo è un'altra cosa. Certo, un'ultima chiara la cosa, differenza. Anche questa cosa dei Corecom, il consumatore Antonio mi sembra da Monza, quella è una strada sbagliata, perché i Corecom sono degli strumenti che hanno quei tempi di attesa, i 10 mesi, invece se si accede e tutte le compagnie telefoniche hanno un accordo con l'associazione dei consumatori, compresa di Consum, che in 45 giorni hanno l'obbligo di arrivare alla conciliazione. In quel caso è molto più rapido e davanti a un'associazione dei consumatori, non davanti al Corecom, ma hanno l'obbligo di esporre i documenti, tra cui appunto il contratto. Beh, certo, che era la prova regina, ovviamente. Allora, Italo da Milano, buongiorno, le chiedo di essere brevissimo. Buongiorno, sono Italo. Allora, spesso nei supermercati, io sono un grande utente di carta di credito, per tutti gli acquisti, però nessun negoziante o cassiere guarda mai la firma. A volte chiedono il documento, io dico, guarda che è più importante controllare la firma. La firma poi che andrebbe fatta non con uno scarabocchio, ma se uno si chiama Gian Domenico Montaleone, leggibile. Credo per esteso, no, che sia estesa, è complicato quindi falsificarla. Allora, a questo proposito, un'ultima battuta alla dottoressa Rubini, perché qui entriamo nella sfera di quelle, come dire, buone pratiche per cercare di arginare il fenomeno. Sì, sicuramente, diciamo, quello che ha detto l'ascoltatore è vero, cioè fare un controllo della firma sarebbe l'ideale, oltre comunque al controllo del documento di identità. Poi sappiamo benissimo che magari in un supermercato con la fila e sì, tutto, certo, quanto, questo è vero, però per limiti di tempo e per anche un po' proceduralizzazione, automazione, perché i tempi si devono ridurre, queste cose, certo, non si fanno. Poi vi dico, tante volte a me stesso è capitato, il negoziante che chiede poi il documento d'identità si sente quasi in colpa. Però questo non è giusto, certo. Non c'è quella fiducia. Che a me se lo chiedono devo dire, dottoressa, io sono più contenta. La devo interrompere perché abbiamo 5 secondi. Vi ringrazio, ringrazio il presidente Giordano, ringrazio la dottoressa Rubini, a tutti voi l'augurio di un buon weekend. Salva Danaio.